che vengono chiusi i progetti, che in questo momento avevamo a Sadder City e le prime attività che stavamo avviando per fornire aiuto agli sfollati di Fallujah. Quando ve ne andrete? Già da oggi chiuderanno tutte le nostre attività, diciamo, era una decisione che ci è stata comunicata ieri a livello operativo interno e che oggi appunto abbiamo reso pubblico per dare la possibilità a tutti i nostri operatori, anche locali, di poter informare le varie comunità. Ma qual è la vostra reazione a questa decisione? Ma è la reazione è di estrema tristezza e anche sgomento, perché dopo aver abbandonato l'Afghanistan in seguito all'uccisione di 5 nostri operatori, chiudere i progetti in Iraq significa che l'azione umanitaria, mai come in questo momento, si trova in una situazione estremamente difficile, in una situazione in cui viene utilizzata come bersaglio da entrambe le parti in conflitto. Però, insomma, siete stati in qualche modo costretti ad andarvene. Beh, l'evolversi della situazione sul terreno, il rapimento delle due Simone, il rapimento dell'operatrice di Kerr e soprattutto le rivendicazioni che sono seguite al rapimento dell'operatrice di Kerr, che chiedevano anche un ritiro dell'organizzazione umanitaria di cui la SAN faceva parte dall'Iraq, sicuramente hanno modificato pesantemente la situazione del poter operare sul terreno, soprattutto per quelle organizzazioni come Medici Senza Frontiere che fanno della propria indipendenza da ogni schieramento un principio irrinunciabile e che fanno della volontà di non avere nessun tipo di scorta armata, ma di proteggersi solo con la propria azione, un attacco che in questo momento qui non può permetterci di esporre il nostro personale a rischi inutili. Cosa lasciate in Iraq? Ma speriamo di aver lasciato una formazione che è stata fornita a diversi iracheni che hanno lavorato con noi, 3 strutture a Sadr City, 3 ambulatori a Sadr City, che è il quartiere più degradato di Baghdad, il quartiere sciita. Speriamo di aver lasciato anche un segnale di cosa significa fare un'azione umanitaria indipendente che non vuole piegarsi agli interessi politici e militari delle forze in campo. La situazione sanitaria irachena, invece? È una situazione purtroppo che si è andata aggravando con il passare del tempo. Un dato che ci teniamo molto a ricordare è che prima dell'inizio della guerra Baghdad era una città con 44 ospedali e con personale altamente qualificato, per cui da un punto di vista sanitario non presentava particolari bisogni se non quelli legati al perdurare dell'embargo delle Nazioni Unite. Dopo la guerra e il saccheggio e la distruzione di tutte le strutture sanitarie presenti, la situazione, la possibilità di rispondere ai bisogni medici della popolazione si è andata aggravando e in questi ultimi mesi, con gli attacchi a Fallujah, a Najaf e a Kerbala, si sono iniziati a registrare spostamenti in massa di popolazione, cosa che non si era verificata prima.